Dana gnuna ti sento bramari, forse no, non t'aggiorna domani. Parognazzo stu letto bagnato, chi cancia colori. Stu lamento mi faci dannari, come un gnatto mangiato di cane. E autociato lontano, lontano, se perde in tuo mare. Lassatemi stare. Tasti lampe sto inferno arraggiato, lassatemi stare. Sto cori di pietra, fragassato e abbruscato me dole, e trema d'amore. Lassatemi stare. Voglio dormire sopra stu mare, perché tinto stu mondo e mi sento un cannaluvare, un cannaluvare. Da nagnuna cull'anchi stuccati, stabili di innamorati, quando sento a tua voce pracata io provo dolori. Sto lamento mi trasinta all'ossa, e spurtusa, spurtusa sto muro, è autociato lontano, lontano, se perdo in tuo mare. Lassatemi stare. Tasti lampe sto inferno arraggiato, lassatemi stare. Sto cori di pietra, fracassato e abbruscato me dole, e trema d'amore. Lassatemi stare. Voglio dormire sopra sto mare, perché tinto sto mondo e mi sento un cannaluvare, un cannaluvare. Cannaluvare.